si muovono macchie di ombra di dune che come le onde si perdono. Ci sono uomini su lenti cavalli, l'ombra si allunga ma l'orizzonte rossia. Si muovono macchie di ombra.